Ecco, allora, siano lodati Gesù e Maria. Allora, la volta scorsa abbiamo visto il ciclo di Abramo, se ricordate, insieme, e oggi invece affronteremo il discorso relativo a un altro grande personaggio biblico che è Mosè. Tenete presente che, come vi ho accennato la volta scorsa, dobbiamo necessariamente fare delle scelte, perché fare tutto l'Antico Testamento rigo per rigo mi richiederebbe la mia presenza qui a Borgo Marano San Michele per circa altri 50 anni, insomma, quindi io me lo auguro di terminare il corso della mia vita terrena qui, però non posso darlo per scontato, insomma, quindi per sperare che entro un paio d'anni riusciamo, diciamo, ad avere una panoramica, dobbiamo fare chiaramente delle scelte, quindi focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti e su alcune figure particolari, evidentemente andando in maniera sintetica invece sulle altre. Ditemi subito se ci vedete bene, perché questo adesso dovremmo aver risolto alcune questioni, alcune situazioni. Quindi oggi affrontiamo Mosè, quindi come già l'altra volta, e vedremo quello che è successo prima di Mosè, perché tra Abramo e Mosè passano soltanto circa 500 anni, quindi passa un bel po' di tempo, non ne passano poco, quindi succede qualcosa e lo vedremo rapidamente adesso nelle prime slides. Poi vedremo la storia di Mosè. Io non credo che riusciremo a esaurire tutto entro oggi, o forse sì, ho cercato di preparare un quadro sintetico. Chiaramente leggeremo i passi biblici salienti, cercando sempre di farci un po' di catechesi. È molto importante per Mosè in maniera particolare, perché Gesù nel Nuovo Testamento riprende tantissimi aspetti, sia della figura di Mosè, sia degli episodi biblici riferiti a Mosè. Cercheremo di vederli, perché l'Antico Testamento aiuta a capire bene il Nuovo. Chiaramente la figura di Mosè è legata a doppio gancio all'evento biblico dell'Esodo, di cui Mosè è stato il condottiero. Quindi vedremo che studiare la figura di Mosè significa anche studiare l'evento salvifico dell'Esodo del popolo di Israele dalla terra d'Egitto. Detto questo, possiamo procedere subito andando a vedere che succede prima di Mosè. Ecco, vedete nella miniatura la statua del Mosè, di chi è? Di Michelangelo, che si trova dove? In Vaticano. No. San Pietro in Vincoli a Roma. Allora, anzitutto il ciclo di Isacco e di Giacobbe, che copre l'arco di ben 30 capitoli. Allora, abbiamo lasciato Abramo, la volta scorsa, che era morto dopo aver avuto questo benedettissimo figlio della promessa, Isacco. La storia di Isacco copre un certo arco di capitoli, comunque per dirlo insomma in breve. Isacco sposa Rebecca e da Isacco e Rebecca nascono due figli. I primi due, che sono i più importanti, quelli intorno a cui si nota la storia, che sono Giacobbe ed Esaù. Avete sentito parlare di Esaù, che è un allora vi do subito la lettura allegorica dei padri della Chiesa. Abbiamo visto che Abramo è il nostro padre nella fede, quindi rappresenta un po' la fede. Isacco rappresenta invece la seconda virtù, la speranza, perché Isacco è stato il figlio sperato contro ogni speranza e riavuto, vi ricordate il sacrificio di Isacco? Giacobbe, la cui figura biblica, dobbiamo fare molta attenzione perché se non approfondiremo i capitoli in questione, però se voi vi andate a leggere da soli la figura di Giacobbe rimanete un pochino disorientati, perché vedrete che Giacobbe, se noi leggiamo Giacobbe con gli occhi nostri contemporanei, Giacobbe sembra un po' un dritto, cioè nel senso che carpisce la primogenitura, fa tutta quanta una serie di magheggi, sembra un po', mi perdona Giacobbe che è santo, con gli occhi nostri, un mezzo intrallazzino, d'accordo? Tuttavia Giacobbe rappresenta nella Bibbia l'elezione, cioè ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, avrebbe detto San Paolo nel Nuovo Testamento, perché Esaù rappresenta allegoricamente coloro che appartengono alla schiera dei riprovati da Dio, perché nella loro vita disprezzano Dio. Cioè, se andate a leggere l'episodio biblico di Giacobbe ed Esaù, si dice nel proverbio, no? Ti vendi la primogenitura per un piatto di lenticchie. È successo veramente così. Cioè, Giacobbe ha carpito, questo ci fa comprendere anche l'importanza delle benedizioni. State attenti alle benedizioni, perché ricevere una benedizione da parte di un ministro di Dio è una cosa grande. Questo elemento era già presente nell'Antico Testamento, cioè il primogenito aveva diritto alla benedizione paterna. La benedizione paterna significava prosperità, successo e benedizione da parte di Dio. State attenti, queste cose sono vere. Drammaticamente vi posso dire che ci sono dei casi veri, leggete i libri di Padre Amort, di possessione diabolica causati dalla maledizione di un genitore. Pensate quanto sono potenti queste cose qui, Questo che mandare gli accidenti al prossimo, maledire, non si deve fare, è una cosa brutta, d'accordo? E Giacobbe carpisce la benedizione, ma Esaù, diciamo così, viene buggerato da Giacobbe, perché mentre lui stava andando dal padre, aiutato dalla madre che aveva un debole per questo figlio, lui stava mangiandosi il piatto di lenticchie, perché era un ghiotto. Quindi è l'immagine di colui che per i beni transitori disprezza Dio. L'altro episodio importante della vita di Giacobbe, misteriosissimo, non so se ve lo ricordate o se conoscete un pochettino, è la lotta di Dio con Giacobbe. Cioè, Giacobbe ha questa vita, a un certo punto Esaù, dopo che gli ha rubato la primogenitura, si arrabbia e, come tutti i cattivi che perseguitano i buoni, vuole uccidere Giacobbe e comincia a perseguitarlo in tutti i modi possibili. Poi c'era stata tutta avanti una questione, perché lui aveva fatto degli intrallazzi con il suocero, con Labano. Allora, a un certo punto si ritrova così, si trova stretto tra due poli, c'ha alle spalle Esaù che se lo prende lo ammazza, e dall'altra parte, cioè il guado del fiume Yabok, c'era Labano che se lo acchiappava, ammazzava in un altro modo. Quindi si trova in questo stretto. E in quella scena, mi pare che è il capitolo 38, però non vorrei dire una sciocchezza, del libro della Genesi, si situa la lotta tra Giacobbe ed Esaù, tra Giacobbe e Dio. Cioè, a un certo punto appare un personaggio misterioso, lotta con Giacobbe, a un certo punto gli spacca il femore, letteralmente, e vedete Giacobbe, che aveva già carpito la benedizione del padre, dice, si aggrappa a questo essere misterioso, dice: non ti mollo fino a quando non mi avrai benedetto, non ti mollo fino a quando non mi avrai benedetto, non ti... E questo, prima di andare via, gli dà una benedizione e gli dice: non ti chiamerai più Giacobbe, così capite anche il nome del popolo eletto, ma Israele. La spiegazione è: perché hai lottato con Dio e hai vinto. Israele letteralmente in ebraico significa forte con Dio. Quindi capite, Giacobbe è colui che attraverso l'immagine... Se voi prendete la De Verbum, vi dice che nell'Antico Testamento ci sono delle cose molto imperfette, quindi non vanno prese alla lettera, cioè, perché Giacobbe, per ottenere tutte tante queste cose, ha tutta una serie di intrallazzi, dice un sacco di bucie in giro, quindi dice: oh Signore mio, quindi se possono dire bucie, perché dice pure Giacobbe, non è questo. Cioè, bisogna carpire, come dai racconti del libro della Genesi che abbiamo appena intravisto, abbiamo visto che bisogna prendere il concetto e non seguire passo passo la lettera, così da questi episodi bisogna... Chi rappresenta Giacobbe? Rappresenta colui che fa di tutto per avere la benedizione. La benedizione paterna è la benedizione di Dio. Quindi è cosa che dobbiamo fare anche noi, cioè che fa di tutto per diventare gradito agli occhi del Signore, e per questo viene eletto. E per questo simboleggia, nell'immagine che vi ho fatto prima, i padri della Chiesa su questo sono concordi, Abramo la fede, Isacco la speranza e Giacobbe la carità, quindi colui che ama Dio e che mette Dio al primo posto, ecco, diciamo così. Da Giacobbe nascono 12 figli, questi 12 figli, poi lo vedremo, lo leggiamo all'inizio del libro dell'Esodo, sono i capostipiti del popolo di Israele. Le 12 tribù di Israele, penso che ne abbiate sentito parlare, se ne parla anche nel... Perché Gesù ha scelto 12 apostoli? Perché non erano 10? Perché non erano 14? Perché Gesù si allinea con questo. Il popolo eletto, vedete, Israele tu ti chiamerai, ti ha scelto il Signore, forte con Dio, nasce dai 12 figli dell'eletto, che è Giacobbe. Gesù, scegliendo i 12 apostoli, vede che ripropone esattamente lo stesso schema. Il numero 12 è il numero del popolo di Dio. Quindi gli apostoli devono essere 12. Vi ricordate che San Pietro, quando muore dopo la risurrezione, eccetera, eccetera, Giuda si era impiccato, convoca gli apostoli e dice: qui dobbiamo ripristinare il numero 12. E scelgono Mattia, vi ricordate? Perché è un numero sacro. Perché il nuovo popolo, vedete, Israele era la prefigurazione reale del popolo di Dio. Quindi Gesù ha rispettato questa norma. Poi li vedremo i numeri dei 12 tribù. Quelle 12 tribù di Israele, poi vedremo quando faremo Giosuè, quando entreranno, ve l'ho già accennato la volta scorsa, nella terra promessa, la conquista della terra promessa, spartiranno il territorio promesso già ad Abramo, quindi ci sono voluti circa 1000 anni prima che la promessa fosse compiuta, un po' di meno, quindi capite che Dio ha sempre i tempi abbastanza lunghi e c'ha molto pazienza, e il territorio di Israele sarà spartito tra i 12 figli di Giacobbe. Vi ho già detto, tutti tranne Levi, perché Levi era la tribù sacerdotale che avrebbe avuto come compito quello di occuparsi solo del servizio di Dio. Quindi vedete come già nell'antica alleanza c'era il concetto di una parte del popolo di Dio che era deputata esclusivamente al servizio del Signore. Tenete presente che cleros, da cui deriva clero, è un termine che si trova nell'Antico Testamento riservato ai Leviti. Cleros letteralmente significa segregato, separato. Quindi altro che, come si dice oggi, quel prete è uno di noi. Bisogna intenderlo. Questa frase è vera soltanto sotto certi aspetti, ma il prete non è uno di noi. Il prete è uno che Dio se lo prende e se lo porta con sé. Lo rimanda alle persone non come un uguale a tutti gli altri, ma come uno che porta Dio, cioè porta l'altro in mezzo alle persone che sono come lui. Non so se, ho già detto altre volte che anche tutto il discorso dell'abito ecclesiastico riproduce questo tipo di discorso, perché l'abito ecclesiastico tradizionale, lungo, riproduce questa visione del prete. Il prete è una persona segregata da Dio, è l'uomo di Dio che si occupa delle cose di Dio e che ti parla di Dio e di Lui, ti è inviato soltanto sotto questo punto di vista. Il prete vestito in clergyman è uno di noi, è come noi, che si distingue da noi soltanto perché fa una funzione specifica, ma non c'è niente di diverso da noi. Ci sono queste due concezioni che si fronteggiano, quindi cercate un attimo di essere un po'. Allora, tra questi figli, tra questi 12 figli di Giacobbe, spicca Giuseppe, perché Giuseppe, così vi mettete tutti quanti l'anima in pace, che lo fanno pure i personaggi della Bibbia, era il figlio prediletto di Giacobbe. C'è sempre un prediletto, d'accordo? Quindi, io ero il prediletto di papà e mio fratello era il prediletto di mamma. E mia sorella, poverina, è sempre stata la calimero della situazione. Quindi, è una legge. E non dicessero i genitori le bugie, io non c'ho nessun figlio, tutti uguali, perché non è vero, d'accordo? Ve lo dico io, bugiardi, ecco, andate a confessare. Allora, che succede? Come tutti i prediletti, sto poro Giuseppe dice: ah, questo è il cocco di papà. E un bel giorno i fratellini, e dicono: siccome questo è il cocco di papà, se lo portano in giro in un posto deserto, e uno voleva addirittura ammazzarlo, volevano. Provo proprio a farlo secco. A un certo punto Giuda, uno dei figli di Giacobbe, vi ricordate, hai visto che nel Nuovo Testamento si parla dei giudei? Chi erano i giudei? I giudei erano gli abitanti del territorio di Giuda. Il territorio di Giuda, uno dei figli di Giacobbe, è il territorio che avrebbe occupato la parte sud della Palestina, tra cui Gerusalemme. Quindi i giudei erano quelli che abitavano Gerusalemme e nei dintorni. Sarebbero stati poi quelli che avrebbero preso, diciamo così, l'avanguardia del potere religioso, oltre che politico, perché anche Davide era della tribù di Giuda. Gesù di che tribù era? Cioè della tribù di Giuda. Gesù era della tribù di Giuda, la tribù regale, da cui discendevano i re. E Giuda, che era un po' più tranquillo, dice: no, no, no, ammazzarlo no. Ci stanno passando un po' di viandanti, vendiamolo. E vendiamo, e l'hanno venduto. L'hanno venduto. Padri della Chiesa, chi è Giuseppe? Figura di Gesù, venduto per 30 denari. La storia di Giuseppe è molto avvincente, perché la storia di Giuseppe fa capire come Dio scrive dritto sulle righe storte, è proprio l'emblema massimo. Perché che succede? Giuseppe viene venduto, questi se lo portano in Egitto. In Egitto lui chiaramente arriva come schiavo, e dopodiché ha l'exploit e diventa, si ingrazia addirittura alla corte del faraone. Dio lo benedice, intelligentissimo, capacissimo nello sbrigare gli affari, ha successo presso il faraone e diventa addirittura il numero uno, il numero due dell'Egitto. Allora cosa succede? Succede che in Israele si scatena la carestia, sono tutte quante cose che trovate in questi capitoli, vi sto facendo proprio per farvi un attimo, per arrivare a Mosè, ci vorrà un pochino di tempo. Arriva la carestia, in Israele non c'è più pane in Palestina, che fanno? I figli di Giacobbe e gli altri vanno in Egitto a comprare pane. C'è una scena veramente unica, che vanno dall'emporio, e chi ci stava nell'emporio? Ci stava Giuseppe. Allora, loro non riconoscono lui, ma lui appena li vede riconosce. E c'è tutto quanto un colloquio, dice che lui, diciamo così, molto, poteva fare il prete, no? Quindi senza farsi accorgere comincia a fare una serie di domande per portarli dove li voleva, e a un certo punto lui si scopre, io sono Giuseppe. E questi chiaramente rimangono tutti, dice, mo chi lo sa che ce fa. E dice, vedete, attraverso la vostra cattiveria, Dio ha provveduto a voi, perché se io non fossi stato qui, adesso non ci sarebbe il pane per Israele. Questo diciamo che è il clou. Che succede? Che attraverso, che succede? Che poi, siccome ritrovano Giuseppe, Giacobbe, eccetera, eccetera, vengono tutti in Egitto. Ecco perché Israele, perché dice, ma che c'è da fare Israele in Egitto? Come ha fatto Israele ad andare a finire in Egitto? Per questo motivo, perché ci hanno venduto Giuseppe, ritrovano Giuseppe, diciamo Giuseppe perdona, e quindi si riconciliano, e quindi scendono tutti quanti giù in Egitto. Ai tempi di Giacobbe, che sono stati, Giacobbe vi ricordate, Abramo stiamo intorno al 1850, con Giacobbe stiamo intorno al 1750-1700. Tenete presente che la schiavitù di Israele, ci dice proprio il libro della Genesi al capitolo 28, durò circa 400 anni. Mosè sorge nel 1250, d'accordo? E poi vedremo come nasce, perché morto Giuseppe cominciano i problemi, perché mentre Giuseppe era il braccio destro del faraone, muore Giuseppe, il faraone che era ancora in carica tratta bene gli israeliti, muore quel faraone, arriva il successore, non aveva conosciuto Giuseppe e comincia ad angariare, ha paura, perché nel frattempo questi erano scesi, avendo la benedizione di Dio prolificavano, e dice ma questi mo che fanno? Questi mo si alleano con qualche nostro nemico e ci fanno una rivoluzione, ci rubano tutte le cose nostre, quindi angariamoli, e soprattutto lo andremo a vedere nel primo capitolo del libro dell'Esodo. Quindi questo basti un po' per... Ora, c'è una cosa molto interessante, perché c'è una parentesi in Genesi 38, proprio all'inizio del ciclo di Giuseppe, che dovete conoscere, è una cosa che non sanno in molti, però è bene invece saperla. Vediamo un attimo se riesco ad andare sulla Bibbia, che è questa. Allora, c'è l'episodio di Onan. Io ve lo leggo, perché questa è una cosa di quelle che bisogna un attimo approfondire. Ci vedete bene? Ve lo leggo, Allora, rapidamente, in quel tempo Giuda, siamo a Genesi 38, si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Adullam di nome Chira. Qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Giuda è Giuda, è uno dei figli di Giacobbe. E la concepì e partorì un figlio e lo chiamò Or. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora una volta partorì un figlio e lo chiamò Sera, eccetera, eccetera. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. State attenti che Tamar fa parte della genealogia di Gesù. Adesso vedremo chi è questa Tamar. Questa Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse ad Onan: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una prosperità a tuo fratello. Qui. Ma Onan, questa è la cosiddetta legge, adesso non è, del del levirato. Vi ricordate quando i sadducei vanno a Gesù, dice: Mosè ci ha detto che se muore la moglie il fratello deve prendere, vi ricordate? E poi il fratello, la presero sette fratelli, di chi era la risurrezione? Vedete, questo sta scritto nella Torah, era una prescrizione. Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua, perché? Perché sarebbe stata considerata prole del fratello. Allora, ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra, per non dare un discendente al fratello. Ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Punto. Vedete? Questa è la condanna esplicita biblica del coito interrotto. È questo il passo. Disperdeva il seme per terra, ciò che faceva era male agli occhi del Signore, che l'ha fulminato seduta stante. Ok? Tanto è vero che se aprite il Denzinger, il coito interrotto in teologia morale si chiama onanismo, cioè il peccato di Onan, che si univa a sua moglie e disperdeva il seme per terra. Molti fedeli pensano che sia una cosa normale, ma questo è peccato mortale, per cui si va dritti dritti all'inferno e si incorre nei fulmini di Yahweh. D'accordo? Ecco, torniamo alla nostra presentazione e concludiamo questa slide, dopo la parentesi di Onan, con Israele schiavo in Egitto. E anche qui andiamo a leggere, con l'aiuto del Signore, la slide di riferimento. Che è Esodo 1. Allora, questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, queste sono le 12 tribù, escluso Giuseppe, ognuno con la sua famiglia. Ruben, contate, 1, Simeone, Levi e Giuda, sono i primi 4, Issacar, Zabulon e Beniamino, siamo a 7, Dan e Neftali, Gad e Aser, più Giuseppe, 11 più 1, sono 12. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto, per questo che non lo cita. Giuseppe poi morì, e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. Ecco il punto fondamentale. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso di noi e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e partirà dal paese. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti lavori forzati per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Vedete, ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla, a fabbricare mattoni e a ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, una delle quali si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre, e se è un maschio fatelo morire, se è una femmina potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio. Non fecero come aveva ordinato loro il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità, e prima che giunga da loro la levatrice hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Quindi questa è la situazione che trova, diciamo così, l'episodio in cui compare poi Mosè, che adesso andiamo a vedere. Quindi vediamo la storia di Mosè. Anzitutto la nascita e la giovinezza. Come nasce Mosè? Lo troviamo descritto in Esodo 2. Anche questo dobbiamo andarlo a leggere. Allora, abbiamo lasciato l'ordine del faraone: uccidere, buttare nel Nilo tutti quanti i figli maschi. Allora, un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi, la tribù di Levi. Mosè è un sacerdote, appartiene alla classe levita. La donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi, ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece e vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone gli disse: porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, qui c'è il significato del nome, dicendo: io l'ho tratto dalle acque. Quindi capite, Mosè è uno che sarebbe dovuto essere morto, è stato salvato, ecco, attraverso questa storia, dal Signore. Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori forzati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli, voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide 2 ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo fratello? Quegli rispose: chi ti ha costituito capo e giudice fra di noi? Pensi forse di potermi uccidere come ho ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura. Certamente la cosa si è risaputa. Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone, si fermò nel territorio di Madian e si sedette presso un pozzo. Saltiamo insomma un pezzetto con... insomma, Mosè sta in esilio. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e Dio se ne diede pensiero. Allora, è importante fare una piccola sosta su questo primo capitolo, poi andremo a vedere la vocazione di Mosè con il racconto del roveto ardente. No, vedete la situazione, perché questa situazione si riproduce molto spesso nelle vicende esistenziali. Allora, il male a un certo punto sembra prevalere, sembra creare terra bruciata. Avete visto i provvedimenti crescenti del faraone: prima uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi buttiamo tutti a fiume. Dio interviene, però salva un bambino, però questo bambino cresce e poi viene rimesso in condizioni tali di essere praticamente quasi neutralizzato, per cui la situazione sembra essere arrivata alla disperazione. Vedete che il capitolo chiude: dopo molto tempo, allora Dio, in quel momento, quando le cose sembrano alla fine, Dio interviene. Ed questo è sempre stato così, sempre, sempre, sempre, sempre così. Se voi pensate alla vicenda di Gesù, è uguale, identica. Mosè doveva essere morto, tratto dalle acque, Gesù bambino doveva essere morto ben poco tempo dopo, c'è stata la strage degli innocenti. Quindi anche la vicenda della nostra salvezza, cioè la salvezza si è realizzata attraverso un'apparente e illusoria vittoria delle forze del male. Guardate che la Bibbia ci dà anche la chiave di lettura di tutte quante le situazioni, anche tutti, cioè se voi vedete la storia, anche la storia della Chiesa, anche il periodo attuale che stiamo vivendo, c'è sempre così. C'è un periodo tranquillo, dopodiché comincia il male, il male, il male, arriva a una misura che sembra che non ci sia più niente da fare. Quando non c'è più niente da fare, Dio ci mette le mani, sempre. Quindi quando arriveremo in un punto proprio messimo, che ecco. Sapete quello che disse al santo curato d'Ars appena entrato nella parrocchia di Ars, no? Dice: padre, è inutile che lei qui ci viene, qui non c'è più niente da fare. Risposta del curato d'Ars che aveva letto il libro dell'Esodo: ah sì? Allora c'è tutto da fare. È entrato e ha trasformato. Guardate che lì c'erano manco i banchi della chiesa, nella sede di uno dei pellegrinaggi più grandi d'Europa, che tutti andavano a confessarsi al santo curato d'Ars. Quindi capite che questa è una cosa molto importante anche da un punto di vista delle vicende della nostra vita. Quindi Mosè che deve fare? Sembra un chiamato da Dio, lo è, però si trova in un momento in cui deve scappare perché sennò lo fanno fuori. A me ricorda tanto la storia di qualcuno, non vi dico chi, però comunque andiamo avanti. Allora si trova in questo deserto, che sta a fare? Deve andare via perché il faraone, hanno cominciato a dire in giro che si è messo a fare il giustiziere, se lo acchiappa, lo fa fuori e quindi si era messo semplicemente a pascolare il bestiame di questo, si era sposato nel frattempo con una nel deserto e stava pascolando il gregge di Jetro. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto e gli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare, Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei sovrintendenti, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Pirizzita, l'Eveo e il Gebuseo. Terra, vi faccio notare tra parentesi, che era stata già promessa da Abramo, sono passati 600 anni, quindi c'è tempo prima che le promesse di Dio si compiono. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questa è la parola magica di tutti quanti i racconti di vocazione della Bibbia. Anche la Madonna nel racconto dell'Annunciazione, fate subito il paragone: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato, quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto servirete Dio su questo mondo. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno: qual è il suo nome? E Dio che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Ci fermiamo un attimo perché è già abbastanza. E facciamo un attimo una pausa di commento, ecco, sulla vocazione di Mosè. Abbiamo letto il capitolo 3. Poi eventualmente daremo un'occhiata anche al capitolo 4. Allora, il racconto della vocazione di Mosè contiene molti insegnamenti utili anche per la nostra esperienza di vita. Allora, Mosè riceve la vocazione, quindi la risposta, cioè, come dire, il senso della sua vita, in un momento in cui si trova in una situazione critica, fallimentare. Anche questo, se voi leggete la storia dei santi, è una costante continua. cioè prima di destinare ad una missione, il Signore normalmente ti porta con la bocca nella polvere, cioè ti deve annientare da un punto di vista umano. Questo vale per tutti, recentemente io sono, come tutti quanti sapete, consacrato alla Madonna, in una catechesi tenuta da un santo padre sono state dette queste parole verissime: la Madonna prima di utilizzarti per le sue cose ti deve annientare, perché altrimenti non serviamo a niente per le opere di Dio, perché dobbiamo prendere coscienza profonda di quello di cui si doveva meditare nella messa di oggi, che siamo servi inutili. Dio, quando noi abbiamo la coscienza della nostra inadeguatezza e ci affidiamo a Lui, avete visto Mosè? Chi sono io per andare? Mica ha detto, ah, mi manda, adesso vado. Chi sono io per andare lì? Dove vado? Cioè, c'è sempre questa sproporzione tra la missione che Dio ci dona a tutti, questo non vale soltanto per i preti, questo vale per ogni tipo di missione che Dio ci dona. C'è sempre una sproporzione tra la persona che la deve compiere e il contenuto della missione. Sproporzione di cui il missionario deve essere consapevole in maniera esistenziale, non soltanto in maniera intellettuale. Non basta dire, io lo so che sono pieno di difetti. E dopo, se qualcuno te ne dice ce n'è uno, t'arrabbi e te lo magni. Che difetti c'hai? Dice, ah, io sono pieno di difetti. Ah sì, ma sei un ladro, ti ho visto l'altro giorno che prendevi 1.000 lire. Io, ma mai. Allora, che difetti c'hai? Che peccati c'hai? Allora, questa cosa, quindi state attenti, parlatene anche con i vostri padri spirituali, è un passaggio fondamentale della nostra esistenza. Quindi quando le cose, dice, ma padre, io ho cominciato a fare, qua le cose vanno sempre peggio. Benissimo, vanno sempre meglio se vanno sempre peggio, perché la prima cosa che il Signore fa è ci porta un pochettino alla conoscenza sapienziale di noi stessi. Poi c'è quell'episodio particolare dei sandali, che deve essere spiegato un po', perché per gli ebrei, loro erano una popolazione, non per gli ebrei, per i semiti, per gli orientali, come fai tu ad acquisire il possesso di un posto? Ci devi camminare sopra, non scalzo, ci devi camminare sopra con i piedi calzati. Se voi andate in Terra Santa, purtroppo queste cose qui si vedono, per esempio nella Basilica del Santo Sepolcro, che è divisa in 6-7 posti, se avete la pazienza di starci una giornata intera, vedete che nei posti comuni ogni tanto prendono e si vanno a fare un po' di passeggiate, prima i frati francescani, poi i frati ortodossi greci, poi gli ortodossi armeni, poi i maroniti, perché se tu un giorno non vai a fare la passeggiata, il giorno dopo hai perso la proprietà su quel posto, ma non è uno scherzo, Quindi stare scalzo vuol dire tu adesso entri in un mondo che è il mio, dove non c'è nessun potere, quindi nessun diritto di proprietà. Bisogna fare anche molta attenzione ai diritti di proprietà che noi accampiamo sulle cose di Dio. Quindi, sapete chi è che andava storicamente? Qual è la classe che storicamente poi andava in giro scalza nel corso della storia? Lo ricordate? Gli schiavi. Gli schiavi andavano in giro scalzi, appunto perché erano schiavi, non erano padroni di nulla. Quindi per metterti al servizio di Dio, io tiro l'acqua al mio mulino che sono Mariano, devi entrare nella dimensione della schiavitù, cioè tu sei un servo inutile a servizio 24 ore di 24 di qualcuno su cui non c'è alcun potere, che ti aiuterà in tutto ma che ti darà tutto quello che è necessario. Quindi, questa è l'immagine. Poi c'è il rovete ardente. Sul rovete ardente ci sono state migliaia di interpretazioni, no? Sicuramente, insomma, il fuoco rappresenta il Signore, il roveto rappresenta noi. Quindi il roveto che arde e non si consuma è in qualche modo un'immagine che fa comprendere come Dio si unisce realmente, non misterioso, vedremo che Mosè diventerà un grandissimo uomo di Dio, alla misera nostra natura umana, interagendo e agendo in essa senza che questa ne venga distrutta. Il nome di Dio è un nome molto importante, dobbiamo pensarci molto spesso. Io sono colui che sono, in ebraico è Yahweh. Quindi avete sentito parlare qualche volta di Yahweh. Ecco, è il nome proprio di Dio, eh? Cioè ciascuna delle tre persone della Santissima Trinità si chiama Io sono colui che sono, perché la natura divina, questo nome, sapete che il nome designa l'essenza per gli ebrei, quindi l'essenza di Dio è Io sono colui che sono. Mo seguitemi un attimo, che mo in 3 minuti vi devo portare nell'altissima metafisica di San Tommaso d'Aquino. Allora, ciò che caratterizza la natura divina, che la rende assolutamente trascendente su ogni realtà creata, è questa. Cioè che l'essenza, cioè ciò che è, coincide con l'essere. Cioè l'essenza di Dio è l'essere. Sicuramente lo state a capire. Faccio subito un esempio. La mia essenza non è l'essere. Perché? Perché io 50 anni fa non c'ero. Io ho cominciato ad essere in un certo momento. Ma se voi aprite il Catechismo di San Pio X, Dio è eterno, cioè è sempre stato e sempre sarà. Tenete presente che in ebraico io sono colui che sono. Orca, com'era? Echye asher echye, sono. La coniugazione del verbo essere si trova all'imperfetto. L'imperfetto ebraico può essere tradotto con 3 tempi italiani: l'imperfetto, il presente e il futuro. Mo, state attenti, Quando trovi io sono colui che sono, è una delle traduzioni possibili. Puoi anche tradurre io ero colui che ero. Puoi anche tradurre io sarò colui che sarò. Però puoi anche tradurre io ero colui che sono, io ero colui che sarò, io sono colui che ero, io sono colui che sarò, io sarò colui che ero, io sarò colui che sono. Ci sono 9 modi possibili. Solo Dio può dire questo di sé. È la trascendenza. Noi uomini non possiamo concepire l'infinito all'indietro. Noi non possiamo concepire qualcosa che non ha una data di nascita. Provate a concepirlo e vedete se siete capaci. Però Dio è così, cioè è un concetto che non c'entra questo nella nostra testolina. I rabbi bambini del catechismo, candidamente, quando io dico queste cose qua, dice: sì, però, ma Dio chi l'ha fatto? Dico: nessuno. Dice: ma come nessuno? Guardate che. Questo, cioè il fatto che l'essere di Dio coincida con l'essenza, da questo dipendono tutti gli attributi di Dio. Il Catechismo di San Pio X non lo fanno studiare più. Cioè noi dobbiamo, cioè è certo che di Dio possiamo conoscere ben poco, però alcune cose ci fa bene ricordarci. L'onniscienza di Dio dipende da questo, dipende. Cioè uno che semplicemente è, presiede, governa in maniera assoluta tutto il corso del tempo, perché in lui nel tempo non c'è, capite? Cioè il tempo è contenuto dentro Dio, quindi per questo che lui sa tutto, sa anche il futuro e sa anche quello che potrebbe accadere e non accadrà mai. Voi vi rendete conto cosa significa un essere? Io ogni tanto glielo dico ai ragazzi del catechismo, perché è bene che lo sappiano, dico: Dio non farà mai queste cose, ma se si volesse divertire, viene qua, prende una bella busta chiusa e ti scrive, che ne so, tu Loredana, domani pomeriggio alle 5 e 7 minuti e 4 secondi starai in questo posto dicendo questo e facendo questo. Ti chiude la busta e la apre alle 5 e 10. Attenzione però che Dio non sa solo questo, Dio sa anche dove potresti stare, cosa potresti dire, cosa potresti fare allo stesso luogo, alla stessa ora, non lo farai mai. E questo di tutti gli istanti, di tutte le vite, di tutti gli enti presenti, passati e futuri, dalla pietra fino all'ultimo degli angeli. Non so se vi... cioè, E l'onnipotenza sua significa che lui può intervenire senza incontrare nessuna resistenza altro che il computer che fa Steve Jobs. Immaginate, ma voi vi rendete conto le variabili infinite di quelle? Oppure l'onnipresenza di Dio, che Dio è presente tutto e dappertutto. Tutto e dappertutto. Voi sapete quanto noi conosciamo l'universo a qualche milione di anno luce. L'altro giorno l'ho fatto, durata 9 mezz'ora la lezione, che dico, sapete quant'è un milione di anno luce? Avete la proporzione di questa roba qua? Allora, la luce viaggia a 300.000 km al secondo, cioè quando accenderete la luce, contate fino a 1 e la luce ha già fatto 6 volte il giro della Terra, la cui circonferenza è di 50.000 km. Per fare un anno luce, come si fa secondo voi? Allora, in un secondo fa 300.000 km, dobbiamo trasformare un secondo in un anno. Quindi 300.000 lo moltiplichi per 60 per fare un minuto. 60 lo moltiplichi per 60 per fare un'ora, poi lo moltiplichi per 24 per fare un giorno, e poi lo moltiplichi per 365, questo è un anno luce, già c'è una cifra, qualche miliardo di chilometri, qualche decina di migliaia di miliardi di chilometri, che è mezzo riga della lavagna, un anno luce, un milione di anni luce, devi moltiplicare quella cifra per un milione, cioè ti arrivano delle cose che non c'entrano più. Ma noi conosciamo dell'universo conosciuto circa il 4%. Le stelle che vediamo d'estate non ci sono più, quelle che stanno più lontane, perché il segnale di luce che vediamo è partito quanto tempo fa? Ci ha messo quanti milioni di anni ci ha messo per arrivare fino a noi? Questo è Dio. Vabbè, dicendo questo non è che però uno c'ha un minimo di percezione, cioè quando andiamo a fare la comunione, guardate che lì c'è quello, perché non è che siccome Dio si è fatto uomo ha smesso di essere Dio, ha fatto, lo rimane. Allora un minimo di percezione di queste cose, io credo è abbastanza importante comunque conservarlo ed averlo, cioè, quindi questa rivelazione è fondamentale, non è che è cessata, questo è il nome di Dio che rimane assolutamente immutato. Vi ricordate Gesù? Ricordate l'anno scorso il Vangelo di Giovanni? Cosa dice Gesù? Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, con la I maiuscola, vi ricordate chi c'era? Fa riferimento al nome di Dio, cioè capirete che io sono Dio, perché il mio nome proprio è quello della divinità. Le tre persone della Santissima Trinità, catechismo, sono uguali pur distinte. Quindi è veramente Dio il Padre, è veramente Dio il Figlio, è veramente Dio lo Spirito Santo. Non è che il Figlio un po' meno e lo Spirito Santo un po' meno ancora. Questa è l'eresia del subordinazionismo. Sono perfettamente identici. Identica potenza, identica maestà e identica... e identico possesso dell'indivisa e unica natura divina, che è tutta presente nel Padre, tutta presente nel Figlio e tutta presente nello Spirito Santo. Ok? Allora, andiamo al capitolo 4 e concludiamo qui, ci fermiamo qui per oggi, perché dopo, quindi, Dio lo chiama, gli assicura la sua presenza, io sarò con te, gli dice il nome, guarda, chi sarà con te? Io sono colui che sono, quindi se sono io con te, stai tranquillo, insomma, no? Obiezioni. Adesso comincia il capitolo 4, la sfilza delle obiezioni. Dice, ma no, ma non mi crederanno, perché? Dice, dove vado io? Quanti gli hanno detto, ma dove vado io? Dice, voglio diventare, ma dove vado io? Non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno, non ti è apparso il Signore. Allora cominciamo coi segni. Il Signore disse, che cosa hai in mano? Un bastone, riprese, gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credono che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Chiaramente su queste cose, se vi leggete i padri della Chiesa, hanno fatto una sfilza di... Che significa il bastone che diventa serpente, il serpente che diventa bastone, che significa la mano che ti diventa lebbrosa e poi ti diventa... lì, quando ci credevano, che ci si mettevano a fare la meditazione, hanno tirato fuori di tutto da questi episodi, specialmente i grandi esegeti tipo Origene, tipo San Giovanni Crisostomo e company. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la... Scusate. Il Signore disse ancora: introduci la mano nel seno. Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. E gli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano e la tirò fuori. Ecco, era tornata come il resto della sua carne. Dunque, se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. Se non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Ecco, piccola parentesi, andiamo verso la conclusione, su questo discorso dei segni. Allora, Dio dà dei segni, attenzione, noi non dobbiamo stare sempre a cercare i segni e non dobbiamo andarci a cercare i segni che vogliamo noi, cioè non dobbiamo andare a dire se io credo in te se mi fai questo segno. Vi ricordate nel Nuovo Testamento anche Gesù: questa generazione incredula cerca un segno, io non glielo do nessuno. Ma Gesù ne ha dati tanti di segni. Vi ricordate l'anno scorso il Vangelo di Giovanni, costruito intorno ai 7 segni, cioè Dio sceglie che segni dare per accreditarsi. E noi dobbiamo fare attenzione, perché questo vale per tutte le cose, cioè apparizioni, rivelazioni private, ma anche la santità di una persona. Noi non possiamo mica pensare che il primo che incontriamo è santo. Chi l'ha detto che è santo? Deve dare dei segni, deve dare. Cioè, e l'analisi dei segni la dobbiamo fare, perché Dio, cioè la fede, state attenti, un conto è la fede, un conto è il fideismo. La fede è la ragionevole, quindi non razionale perché non si può dimostrare, comunque sottomissione dell'intelletto e della volontà ad alcune verità che Dio però in qualche modo le accredita con i segni che decide lui. Il fideismo è dire di sì al buio, questo non si può fare. Dio non ci tratta così, perché Dio ci ha donato un intelletto che noi dobbiamo saper far funzionare bene, non farlo diventare la causa della nostra rovina, pretendendo di andare a mettere Dio sotto processo, ma che dobbiamo anche utilizzare per capire i modi e i segni con cui lui ci parla. Vi ricordate quando Gesù provoca i suoi ascoltatori, dice sentite un po', ma quando la sera c'è sta il tramonto rosso, che dite? Domani piove. E quando c'è sta quell'altra cosa, domani bonaccia. Dice: bravi, avete imparato a riconoscere i segni meteorologici, e come mai non sapete riconoscere i segni dei tempi, come vi dice questo tempo, il tempo messianico in cui sono venuto, non sapete riconoscerlo? Perché dice questo? Perché tutti quanti i segni che erano stati profetizzati dai profeti, Gesù li stava facendo e voleva che le persone, state attenti, che quando Dio ci si manifesta dà sempre dei segni che noi dobbiamo riconoscere, accoglierlo. Non so se state capendo bene. Questo è un discorso molto importante. Quindi è bene non fidarsi subito ciecamente del primo che capita. Certo, non si può diventare increduli. Però dobbiamo riconoscere e dobbiamo ricordare che Dio accredita le sue opere sempre con qualche segno buono. Chiaramente i criteri di discernimento dei segni derivano dalla conoscenza principalmente della scrittura e della dottrina della Chiesa. Per questo è molto importante essere formati. Gesù dice: ognuno ben preparato sarà come il suo maestro, però un cieco che guida un altro cieco fa cadere tutti e due dentro una buca. Ecco. Altra obiezione. Mosè disse al Signore: perdona. Quindi va bene, abbiamo risolto il problema. Ti è apparso il Signore, ci penso io, glielo farò vedere io che ti sono apparso con dei segni. Dice: però io non sono un buon parlatore, non so cucchiato parole messe insieme, non lo sono stato né ieri l'altro, neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Il Signore replicò: ma chi ha dato una bocca all'uomo? O chi lo rende muto, sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore? Ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. D'accordo? Questo vale per tutte le cose, tutte. Facciamo il problema un pochettino: come faccio a fare un altro figlio? Come fai? Come hai fatto con gli altri? Il Signore ti aiuterà a fare anche gli altri, sta tranquillo. Perché se te lo dà, te l'ha dato lui. Quando lui ci dà una missione, non dobbiamo preoccuparci. Dico, e se vengono un altro po' dei penitenti a confessarsi, come faccio? Già gliela faccio più, e le giornate diventeranno di 48 ore. Non c'è nessun, se ti rimanda, ti darà il modo di gestirli. Se non ti rimanda, Padre Pio ha gestito 6-7 milioni, a voglia, prima che arriviamo lì, insomma, quindi che problema c'è? Cioè, quando Dio ti chiede una, ti dà sempre tutti i mezzi, questa è dottrina della Chiesa, ti chiede una cosa, tu devi soltanto fare quello che vuole Lui. È Lui che provvede anche a supplire a tutte le tue inadeguatezze. E lo fa. Allora Mosè disse: perdona Signore, manda chi vuoi mandare. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: non vi è forse o suo fratello Aaron il Levita? Io so che lui sa parlare bene, anzi sta vedendo d'incontro, ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca, e io sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te, egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone, con esso tu compirai i segni, eccetera, eccetera. Ok, qui finisce il racconto di divocazione, poi Mosè si congeda dal suocero e la prossima volta vedremo che comincia la missione in mezzo al popolo di Dio, a Israele. Ok, io direi che possiamo fermarci qui per oggi, perché sennò facciamo troppo tardi. Ci fermiamo alla vocazione di Mosè, riprenderemo poi la prossima volta dal capitolo seguente, che è l'inizio del racconto dei prodigi fatti dal Signore per far uscire Israele con le 10 piaghe d'Egitto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.